E nelle puntate precedenti ci ritroviamo tutti nella Corona Nera, cioè dentro la cosa postale della Corona Nera. Nibel ha avuto info su Adelfo, probabile che... No, vaffanculo, siamo andati avanti. Taglia, taglia, taglia. Ce la posso fare oggi. Nibel è andato a parlare con questo Cristiano al porto. Questo Cristiano gli ha detto: ah sì, quello stronzo ha lavorato per me, bravissimo, ma una testa di cazzo e mi deve dei soldi. Ovviamente ormai questo è un life motive per Adelfo. Ho Probabilmente è un fatto 8 insulto. mana unit. Esatto. 8 su 20, A cos'è che è? small loan. Esatto. A 500. E ci incrociamo Nibel e il party, e nel mentre che tentiamo di andare alla locanda, Adone e il Magister Magi incrociano gli sguardi, e poi Magister lo invita ad uno showdown nel giorno dopo all'alba con i pistoleri, con i veri pistoleri. E niente, a quanto pare Adone ce l'ha più grosso perché è sopravvissuto. Ovvio. Ah sì, è vero, avevamo recuperato anche il libro sui sigilli. Cerchiamo di pianificare un qualche tipo di piano per domani, decidere se andare o non andare. Decidiamo di andare alla fine tutti insieme. Però, nel mentre, riportiamo in vita un cazzo di automa. L'automa in questione era il corpo del vescovo di Oclica, che ce lo fa. Ci tiene a farcelo sapere, insomma, io soffro qua dentro, non mi sono scritta la frase in particolare, quindi fillatela voi nel caso. E ce l'ho alla bozzata se la vuoi. Aspetta, cosa prende la nota. Solo Morosenkatz non è morto. Io soffro, non c'è un inferno, ma molto di peggio. Esatto, grazie mille. Vogliamo mettere in vendita l'automa, quindi facciamo spargere le voci insieme alla Void Coin o qualcosa del genere. Dito e mi scopano, yay! E Nibel vede Adone passa gli ultimi attimi con Cici e Adone vi sognano rispettivamente l'uomo che ride. Stamattina abbiamo questo showdown all'alba con il Magister Magi che viene ammazzato da Devin dopo il suo flex con il suo monologo da supervillain. È morto. Vi riprendo la Devin, siamo. situazione. E Mif viene picchiata. È E mi stavo vero. per dire, Mif viene picchiata da Devi. E niente, mi sono appuntata il sudditoppio. Vi riprendo la situazione. Siete legati a terra da delle catene magiche. Il loro effetto si rimuove lentamente, quindi avrete ancora diversi minuti da passare legati per terra. E l'ultima sessione l'abbiamo lasciata con Devin, che ha la maschera del mage, ha dimenticato questo passaggio, legata alla cintura, e se ne sta andando, cioè gli sta dando le spalle. Breve giro di cosa volete fare finché Devin è ancora vicino, e dopo un attimo se ne andrà. La sessione scorsa hai detto che se ne era già andato via e noi eravamo Sì, la incatenati. Ok. riprendiamo da un attimo prima. Siamo ancora sotto l'effetto delle catene del Sì. Magister. Non tentarmi, diavolo! Sì, come ho detto l'altra volta, Nibel cerca di forzarla, invano chiaramente, però è quello Sì. Penso che Mif sia impegnata a rantolare, a sputare sangue per terra. Adone è fermo con gli occhi fissi sul suo premio. Dietro c'ha tipo gli occhi che stanno cercando di guardare il cadavere del Magister e Devin dall'altro lato. Manca una persona, ovvero la nostra cara Cici, che sta avendo un legittimissimo breakdown. È morto un mage. Ruolala, ruolala, la vogliamo Sì, sentire l'attimo, cazzo, piangere. dammi un attimo. Man mano che Devin si allontana e non è più nel vostro raggio visivo, lei inizia a sussurrare. No, ma possiamo ancora salvarlo, basta portarlo in città. Ci sarà un necromante che lo riporti in vita? Siamo morti nel posto sbagliato, cioè è morto nel posto sbagliato, probabilmente, carissima. Quello in vita non ci torna. se scoprono che abbiamo ucciso un magister. Non abbiamo ucciso un magister. Guarda la situazione, sembra che l'abbiamo ucciso noi. Nessuno di noi possiede armi e io, vabbè, Lieto c'ha la pistola, però vabbè, un po' indicare, dice la maschera ce l'ha lui, non noi. E anche se fosse, cioè dai, se abbiamo ucciso lui possiamo ammazzare tutti gli altri, staranno attenti nel caso. È finita, ci daranno la caccia fino a dire non potremo mai più avere una vita normale. Non hai responsabilità per questa cosa, Cici. Se vuoi scappare puoi farlo. Una volta che saremo liberi da queste catene. È questione di scappare. Possiamo ancora riportarlo in vita. Certo! Che lui sia in vita. Non siamo nei due, c'è prima. Che lui sia in vita o sia morto, ci daranno comunque la caccia. E se è in vita, ci darà la caccia a lui. Quindi preferirei che rimanga esattamente così la situazione. Magari potremmo chiedergli della grazia, visto che l'abbiamo resuscitato. Pensi che uno come ci voleva, lui ci voleva ammazzare prima? Dimmo io, eh. Cioè, anche se lo riportassimo in vita, dubito ci darebbe la grazia. Ci voleva ammazzare, se ci avesse voluto ammazzare ce ne avrebbe ammazzato. Il posto in cui ci voleva portare è peggio della morte, fidati, Cici. Per voi forse, per me era una tranquillissima prigione. No, non lo so, forse. Dipende com'è che tratta e tipo sputa altro sangue dalla bocca. Com'è che trattano l'impero i traditori? Non penso bene, Cici. Vabbè, alle brutte finisce a fare l'operatore ecologico. L'operatore ecologico all'interno della centrale di Mana. Sì, sì, sì. Sì, sì, sì. E se ti facevano andare in prima linea con la piaga bronza? Sì, tu che hai scelto l'impero, amica mia. Avete notato che da quando è spuntato il pescione il cielo è sempre limpido, mentre tutti i giorni prima, non so se avete una vaga memoria di questa cosa, era sempre tempo di merda, quindi... Ok. E anche oggi è una bella giornata, il sole sta salendo dietro la schiena del mostro, quindi siete agli ultimi 10-15 minuti di luce diretta e non è ancora arrivato nessuno in questo luogo, mentre vi sareste aspettati clienti o qualcosa del genere. Le catene iniziano ad allentarsi, nel senso che facendovi male potreste divincolarvi, però sentite che la loro stretta si fa sempre più debole, quindi è questione di aspettare. Quanto dura questa cosa? Cioè, mi sta pensando in efficacia di spell. Cioè, da quanto tempo è che siamo effettivamente incatenati? Mezz'ora. Ma soprattutto non è strano che la spell continui anche se lui è morto? Cici ti guarda ed è tipo, allora è ancora vivo? Lieto tipo, cerca di allungare il collo. Dannazione. No. Yannick. Adone, che è un uomo di cultura, mi sa rispondere a questa domanda? Sì, stavo già guardando Adone. Adone riesce a percepire da qua se c'ha un'anima? Il Magister? Ha chiaramente un'anima. Ok. E è morto? Quello non te lo so dire. Infatti. Però mi occorrerebbe castare horoscope per carità. Ho conosciuto molta gente con un buco in testa. Viva. Viva. Non morta, qualcuno più. Mif, ci hai parlato tu con Bocca di Ferro. Pensi che ci possa mandare contro l'impero? Non ne ho la mia idea, è tutto pazzo. Voleva spoltire il mondo e continua a perdere sangue di nuovo. Se non ci sbrighiamo di la mascella di ferro, non voglio. Devin è un pazzo dalle idee estremiste. È un po' una mina vagante. Potrebbe diventare una spina nel fianco anche per l'impero, forse, se qualcuno lo aiuta. Cici da un lato dice: credevo fosse l'amante del Magister. And yoi, hold on! Cosa faceva nel suo tempo libero? A noi non è dato sapere. Devin è confermato omosessuale da quando? Erano spesso insieme. Non so. Dottore ci pensa, dice, non credo. Domanda, Adone penserebbe che effettivamente è un omosessuale? Avendogli parlato una volta, no. No, dai, gli ho parlato un paio di volte. Nel senso, basterebbe avergli parlato una volta per sapere che non è plausibile questa cosa. Infatti, Adone dice, no, sono abbastanza sicuro che non fosse il suo amante. Ah. No, doveva essere tipo il suo... coso, come si chiama? Quando... No, quando... Pupillo. Una cosa non esclude l'altra. Sì, giusto. Avrà pullato una Griffith, non lo so. Ci pensavo anch'io. Se è una mina vagante, poco importa. L'importante è che non ci esploda vicino. Per quel che mi riguarda, può pure distruggere l'impero dall'interno. Oh, aspettate. Cici casta Gust dietro di sé. E... come se fosse un tubetto di dentifricio viene spruzzata fuori dalle catene. Ah, fortissima. E vi guarda dall'alto in basso. Dibel fa forza di nuovo sulle catene. Cominciano a cedere. Non ho overpower! Uffa! Ce l'ho io, cast overpower, se posso lanciare. Non puoi castare perché... Ma scusami, le catene non erano... Allora lancio overpower per cercare di rompere le catene. La tua forza fisica aumenta sufficientemente da poter spaccare le catene. Cosa stai pensando, Cici? Stai lontano dal corpo. Non è quello che volevo fare. Loro due, e indica a due nel lieto. Non me la raccontano giusta. Stanno guardando il corpo in maniera strana. Mi avvicino al corpo del magistro, lo prendo per dalla schiena, dai vestiti. Avendo overpower è leggerissimo, però sarebbe un uomo di peso medio, quindi sui 70 kg. Nibel, portalo qua, Nibel! Mi avvicino agli altri, lo metto esattamente in mezzo tra Adone e... Non ci credo! Non mi sembra una buona idea. Vogliamo veramente fare questo gioco? Vabbè, cast fireball sulle catene. Mi libero, si sciolgono addosso. Non si sciolgono, ma vengono spazzate via. Con le catene tu anche. Posso fare... Sì. Posso castare Absolute Rule sul dietro? Puoi castare e lui può resistere. Ehi, l'ultimo era tuo, questo è mio! Bastardo infame, me lo ricordo. Aspetta, vuoi un attimo che la discutiamo, Ica, oppure no? No, è mio questo, di diritto, l'ultimo l'hai mangiato tu, questo è mio. Ma tu vuoi mangiarmi il marito, anche no? Non è detto, se ne mangio abbastanza, sa che il marito non mi serve. Però così, Arv. Mi sembra. Lo vuoi provare a chiedere? Vai! Pronto, papà! Ah! Ti ricordi che... Deve anche non essere necessario mangiarti il marito, in realtà. Sì, effettivamente, quello è uscito di testa. E... Vai, sprint! Lieto libero. Si lancia. A livello di... capacità fisiche, lieto è molto più... Adone glielo portato. Lascia, non ci prova nemmeno a prendere il corpo. Ma sarebbe da Adone questa mossa? Ha avuto dei pensieri. Hai? Lo mordi, immagino, cioè cosa fai? Prova a descrivere questa cosa qua. Mi avvicino e faccio tipo il gesto di mordergli tipo un dito. è leggermente diverso dalle altre volte. Hai l'impressione che qualunque cosa sia l'anima, nel suo caso sia stata usata di più. Ti faccio un paragone con l'ars culinaria, visto che stiamo parlando di necrofagia. È come se normalmente è una bella mucca, un manzo, ok? Succoso. Okay. E questo invece è un cazzo di toro, di quelli proprio palestratissimi, muscolosissimi, che hanno passato tutta la vita a schiacciare le cose e a scopare altre mucche. E quindi ha una carne pressoché immangiabile. Per palle enormi. Sì, esatto. È cianciugoso da mangiare, insomma. Sì, proprio c'ha un sacco di nervi. Sì, lì. C'ha un sacco di nervi quest'anima. L'altra cosa che tu dovresti notare è che la tua direttiva, che puoi benissimo ignorare, era di consumare le divinità. Non c'è niente di divino in quest'uomo. Forse era meglio se non lo mangiavo questo. Sto dicendo agli altri. Era stopposo. Non devi mangiarla tutta per forza. È vero, infatti tipo... se è possibile non lo finisco, è tipo... È buleano. Mangio un pezzo... È buleano, non posso scegliere, ok? Me l'ha mangiato allora. Tipo se lui crederà che i magi stai fanno schifo. Cici non sta capendo cosa sta succedendo e si limita a dire: quindi non proviamo nemmeno a resuscitarlo? Sì, certo, prova. Tanto Adone credo che si alza e si toglie un po' la terra di dosso. Credo si sono rotte le catene. Sì. O sono ancora per terra. Sì, no. Sai per sei fare delle necromanzie, Cici? No. Vuoi portare il cadavere in città? Lasciamogli un biglietto sopra. Firmato da chi? Da nessuno, non è che devi firmare un biglietto. Prende un pezzo di stoffa e inizia a incidere: resuscitatemi per favore, ce lo mette in faccia. I guess mi pare abbastanza chiaro che un tipo con un buco in testa potrebbe voler essere resuscitato. A meno che non gli mettiamo una pistola in mano e insegniamo il suicidio. No, è da dietro il buco. Non sono un poliziotto di eroe. Satira! Dicevo, Cici mette uno dei suoi manapenni sopra il biglietto che ha lasciato. Cosa pensi che farà l'impero sapendo che il loro magistro è morto? Credo loro comunicano telepaticamente. Quindi lo sanno già. Hanno tipo dei sistemi di allarme. Se entro un tot di tempo non mandano nessun messaggio, in genere vuol dire che non possono mandarne. Posso fare 2 più 2 e capire che... A parte che Nibel non sa... No, lo sa che è morta Maria. Sì. Posso fare 2 più 2 e capire che probabilmente avevano avvisato anche della morte di Maria. Sì. Quindi beh, effettivamente è meglio se leviamo le tende il prima possibile. Se sanno già che questo è morto, sapevano dov'è? Appunto, se non ha detto dove si trovava... No, sanno solo che è morto ad Esboson. Il problema è che dovranno tirare a indovinare o investigare su chi l'ha ucciso. Siccome qua c'è la corona nera e dovrebbe arrivare tua madre lieto... A meno che il Magister non abbia comunicato comunque cosa andava a fare stamattina. Devin lo sapeva chiaramente. Se l'ha comunicato qualcun altro, sanno già di chi sospettare. Vabbè, forse dovremmo... Biglietto lasciato. Colazione. Forse dovremmo approfittare della rete logistica della corona nera. E magari anche di un medikit tipo Miff che si è stesa per terra, no? Che sta continuando a sanguinare. Ah, malissimo, cioè... Domanda, un calcio in fronte, Miani? Ah, in bocca te l'ha tirato. In bocca, sì. Può causare comunque concussione, tipo... Sei forte? Sei forte, sì, sì. Perché tipo ti rimane. La gente, perde i sensi se colpisce il. Infatti, cioè, ci sta che mi sia attorniata, no? Cioè, quindi la vedete che è tipo stesa per terra, no? Magari di lato, perché sennò si soffoca col sangue. Continua a perdere un pochino, ma era un medikit. Bel me. Sì, direi che torniamo in città comunque. Qualcuno di voi vuole rimanere qua a vedere chi viene a cercare il... No. Cobalt. Visto che l'altra volta me l'avete chiesto, ve lo dico esplicitamente. C'è lo scettro a fianco al corpo. Giusto! Lo scettro! tipo che ha questo pensiero subito si alza di scatto e fa... Datemi il bastone! Puoi segnartelo nell'inventario. Sì! Nessuno si è opposto a questa cosa. Ha altro, tipo monete, malapenny, altre cose? Sembra di no. Ok. Maschera se l'è ciullata Devin, no? Sì. Sì. Okay. Maschera se n'è andata con Devin. Non puoi avere tutto tu. Voglio avere anche io delle cose. Ti ho lasciato la Void Coin. Io ho lo scettro del Magister. Vif. Anche dopo c'è un tuo problema se non riusciamo a partire in tempo, mica mio. E... Mif, senti qualcosa tenendo in mano sta roba? Non ho capito la domanda, mi ero distratto. Mif, tenendo lo scettro, ha preso lo scettro, no? Ok. Sente qualcosa? È magico? Non è magico? Ha delle energie diverse? A livello magico non percepisci nulla di che. Sembra più un... Sembra più un... come si chiamano? Un affare che... Oddio, non mi viene il termine, cazzo, un ripetitore. Cioè, una cosa che di base non fa nulla, ma se tu gli dai un input lo restituisci. Focus. Sì, una cosa del genere. Un focus, ok. Il metallo di cui è fatto è più interessante, ma non hai le competenze per analizzarlo. Di sicuro non è un metallo che hai visto altrove. Così come i geroglifici che ha sopra la superficie del bastone non li hai mai visti. Posso controllare io il metallo? Sì, di 10 su tecnologia. Ok. Oh cazzo, non ho avviato su Roll20, merda. È il grave errore. Sto 9. Allora, nel dettagliissimo non sai cos'è. Chiaramente sembra una lega di rame e altre cose, tipo bronzo. Non è bronzo. È ossidato, ma il modo in cui si ossida è completamente innaturale. Cioè sembra che formi delle linee perfette la sua ossidazione. E non ha né polvere né altre cose. Il colore è appunto tra il... verde e il marrone, e a giudicare da appunto queste cose che ti ho detto probabilmente proviene da una zona che non conosci, quindi da fuori dalla Solveria o da un ambiente con delle condizioni geofisiche per cui produce un metallo di questo genere, per esempio. Non mi sembra una roba alchemico. No, è un materiale naturale, il materiale alchemico lo riconosceresti, è generato naturalmente. E il cioè, potrebbe però essere estratto da un metallo che si forma a tipo 2000 metri di profondità. Capito? Cioè, sicuramente non è né nelle miniere in cui sei stato, né nelle zone che conosci. Però, appunto, può essere sia in Solveria in profondità, può essere nella Diro, può essere della Gulacca, può essere mille origini diverse. È una lega che non conosco. Potrebbe arrivare da fuori. Mif che tipo si fa forza sullo scettro per alzarsi, un po' wobbly ancora. Ma sì, l'avevo visto ancora tanto tempo fa, mi aveva incuriosito. Lo teniamo, magari dopo provo a castare qualcosa, fa qualcosa magari. Ma c'è il battacchio dentro oppure no. Solo la campana vuota? Okay. Forse è meglio nasconderlo, cioè se ci facciamo vedere questo coso... In città. Avete anche un cadavere di 200 kg, se ti interessa. E tipo mi fa, tipo, mette lo scettro davanti a Nibel e fa: tu lo copri completamente, se te lo metti sulla cintura e ci metti la giacca sopra. Ho abbastanza spazio nello zaino, non dovrebbe. Esatto, cioè abbiamo uno zaino sia io che lui, quindi. Siamo venuti con i cavalli o a piedi? A piedi. Siete venuti a piedi, però... cavalli sono rimasti alla locanda. Tipo, mi fa... potevo dire con i cavalli. Metto il bastone del magister nell'inventario. Sì. Vabbè, io direi che potete accompagnare Mif da un medikit. E io vorrei rimanere qua un attimo con il robot a vedere... chi lo vuole comprare. Anch'io penso rimarrò qua ad aspettare. Io non ci torno in città. Allora, Adone carissimo, allora, accompagnami. Aspettatemi un attimo. L'attesa. Sparito. Poteva stremare la litigata con i suoi genitori almeno. Non sta litigando. Dici tu. Penso qualcuno entrare con una scatola, tipo... Sì, secondo me non stanno litigando, stanno più costruendo un edificio. Ciao, ciao, serio. Okay. Ciao, serio. Noi? Ciao, Adone, ciao. No, stava dicendo che potevi streamare la litigata con i genitori. No, è entrato mio fratello, che si è messo a mettervi le robe, mio padre, poi... Cioè, ciao! E mio fratello lascia la porta aperta, spalancata. Not funny, man. Ti faccio un riassunto... Grazie. Sarebbe qualcuno che accompagni Mif in città a guarirsi il dente? Esatto. E hanno scelto te. Va bene. Accompagniamo la bimba. Non lo dice Adone questa cosa. Ok. D'accordo. Andate così tanto d'accordo. Sì, veramente. Tipo, visto che ci gira verso lì, ve lo fa. Okay. Oh, ma... Allora... No, niente. Mif è bipolare, comunque. Parto da quelli che rimangono, poi vado a voi due e poi ritorno a loro. Siete in tre sopra il cadavere del magister. Cici parla, ma restiamo proprio qui sopra. Non andiamo, cioè... Avevamo detto qua. Sì, ma c'è il male che vada. Tizio morto. Lo spostiamo. Non è una cattiva idea. Nibel lo trascina nei cespugli più vicini, tipo. Sì. Ci dà una mano. Ma non ne ha bisogno, c'è ancora per power attivo. Esatto, tipo lancia uno stecchetto nella una busta di della spesa, tipo. Lo prendo, lo trascino, lo metto non troppo distante, se ci sono delle pietre o dei cespugli che lo possono coprire. Okay. Quando se dovesse arrivare la corona nera, io lo ti chiediamo di disfarcene. Sì. L'hai già fatta questa cosa? Cosa? Vendere robe proibite. No. Tecnicamente io sì. Non sapevo che fossero proibite all'epoca. Quante volte? Ho lavorato nel negozio di mia madre, quindi c'è il rumore di anni. Ok, allora sono un pochino più tranquilla. Però c'è un sistema di supporto, che è il negozio, che qua manca, quindi comunque... Non ti rilassare troppo. Sì. E estrai la meridiana. Girata apposta. Vabbè. Qualcuno conosce qualche gioco per passare il tempo? Cici a questo punto dice: in università facciamo un gioco, praticamente uno deve dire una parola e con le ultime due lettere della parola tu devi dire un'altra parola che inizi con quelle due lettere. E inizio io, la mia parola è pena di morte. All regno. Credo sia TE l'inizio. Esatto. All'inizio o alla fine era? No, le ultime due lettere, quindi pena di morte. Te, scusami, sì. Tegola. Tocca a te, Nibel. Lamento. Tovaglia. Ia. Lo so. Ia. Ialuronico. Sì. Legit. Non l'avevano ancora scoperto all'epoca. Non era una parola back in the days. No, è ia, ia. No, niente. Ialuronico rimane la mia C. Coniglio. Io cane, io... Cavolo, ho perso. Ionio! Taglio, non esiste il mare Ionio. Non so, se me lo chiedeva gli avevo detto che è un mare. Non in questo mondo. Scambio di scena. State camminando al passo a cui riuscite a camminare, verso la città. Il sole sta... Non so quale sia il termine giusto. Si sta eclissando dietro la gigantesca creatura. Forse è questo il termine giusto. Quindi siete in quella fase luce non luce strana, peculiare, singolare, alla quale vi dovete abituare, perché sarà così tutti i cazzo di giorni finché non ce ne andiamo. Perché ce ne andremo? Sì, dovete andare molto lontani, perché questa cosa si vede da lontano. Dicevo, state avvicinando a... non ci sono le mura della città, ci sono i quartieri esterni, e vedete che c'è una innegabile, indubitabile mobilitazione delle truppe, ovvero soldati in assetto da combattimento che marciano schierati. Uscendo dalla città? Stanno uscendo dalla città. Soldati di Esbosan? Soldati dell'impero. Allora, porco Dio, riusciamo a evitarli? Dimmi tu come. La strada l'unico è... che ti aveva riconosciuto comunque al Magister. Sì, sì. Che si è fatti i cazzi suoi comunque. Però c'è una ragazza ferita che... E ha sbattuto, è inciampata su un sasso, ha preso una musata. Cioè, non è che... Esatto. Non sei presente, sono caduta. Ma apprezzo il tuo... Vabbè, sono caduta, esatto. Vabbè, comunque Adone, in linea di massima, se prima non gliel'avevi lasciato fare, adesso lo fa e ti prende con sé, cioè cerca di farti appoggiare a lui, almeno. E... Secondo te ci chiederanno qualcosa? Non lo so, speriamo di no. Tu ti guarda un attimo e dice, tu non preoccupare, non mi sto male abbastanza. Ma di testa, dolore. È terribile. Devo dare un calcio. No. È già aspettato. No, lascialo stare. No, quel bastardo, figlio di una puttana. E inizia. Inizia ad insultarlo a ruota. Vi raggiunge la prima delle truppe che hanno la maschera. Ok, hanno tutti la maschera. Quindi questo non è un buon segno, per quello che ne sapete. La terza delle legioni che stanno passando, ogni gruppo è formato da 5 soldati, il capo della legione si ferma a guardare Mif, capisci che è una ragazza, poco più alta di te, molto più giovane di te, e con tono dolce ti chiede, che è successo, stai bene? Sì, sì, sono caduta prima, ho messo male un piede e ho piantato... Mette una mano in faccia e ti dice fammi vedere. Mirmo di tipo guarda e fa tesoro. E appunto Adone sorride e fa grazie mille. Come si chiama la sua figura? È un lo riesce a riconoscere, è un legato, cioè è il gradino sotto al Dux. Sì, sì. Comunque Adone non lo dice beh. Grazie mille, ma stiamo proprio andando al primo medikit più vicino per curarla. Non c'è problema. Senti il pollice della ragazza che ti tocca in corrispondenza di dove ti è caduto il dente e casta regenerate, facendoti ricrescere il dente e arrestare il sanguinamento. E tu vedi che fa un po' un attimo un lavoro di bocca, fa grazie. Ti senti meglio, amore? Sì, è la prima volta che mi succede una cosa del genere. Grazie mille, è stato gentile. Possiamo chiedervi una cosa? Certo. Prego. Da dove venite? Adone dice, io vengo dall'impero e sa, siamo qua in... No, che idiota! Che idiota, porco Dio! Veniamo dall'impero, dall'impero da cui non potevamo uscire. O meglio... Lui viene dall'impero, io vengo da te. Io sono originario dell'impero, ma appunto abito a Thrice con la mia... con la mia futura moglie da un po' di anni. Allora. Sono felice per voi e mi dispiace della situazione corrente. Speriamo si risolva il più possibile. È un po' preoccupante quella cosa. Sì, sì, infatti è ostile. Cioè, farà qualcosa. Insomma, non ho mai visto qualcosa di così tanto grande. Sembrerebbe di no. Il nostro magister se ne potrebbe occupare in pochi minuti, ma stavamo valutando quali sono i rischi del fare questa cosa. Comprensibile. Beh, insomma, tenetevi al sicuro, ecco. Su tutta l'isola dovrebbero aumentare gli attacchi dei mostri nei prossimi giorni, vi consigliamo di prestare maggiore attenzione. Grazie. Fa il saluto Grazie. Militare e la legione riprende la marcia. Forza, andiamo, cucciola. ti guarda allora e fa... Ha veramente funzionato però, sembra tipo come le magie di ora. È come le magie di ora, vero? Ok. Non ho più bisogno di un mini schiaffo per farlo. Esatto. E si gira verso Adone e fa, non abbiamo più motivo per andare. Vuoi cambiarti almeno? Mi si rende conto che è tipo sangue e fa, sì. Dai. Andiamo comunque in hotel, almeno ti cambi. Hotel? Locanda. Locanda, scusami. E poi si ferma Adone e dice, cazzo, come fanno... Gli altri non sanno delle legioni in arrivo. Non hai modo di mandargli un messaggio? Un segnale? Il coniglio? Sì, ma un coniglio dà un pochino nell'occhio. Facciamo così... Proviamoci. Vado da sola, vuoi andare tu? No, troppo rischioso. Facciamo così. A questo punto Adone... Vediamo un po'. Perché chiaramente... Io che prima dovevo cazzare Every Talk. No. Aspetta che... Ok, Piani, ci posso fare scrivere un bigliettino velocissimo, darlo al coniglio e sperare che il coniglio arrivi prima delle legioni? Al ritmo a cui stavano marciando, senza tagliargli la strada, non arriverà prima di loro. Merda. Donne dice, non ho proprio idea di come farglielo sapere. Il mio coniglio non arriverà in tempo. Non ho idee. Bianic? Dimmi. Fammi vedere un attimo una cosa. Fai pure. Cosa se casto tante magie per accumulare velocità e raggirarle molto più velocemente di loro? Credo che la consumi dopo la prima azione di movimento. cioè tu lo accumuli la velocità e poi la prima volta che ti muovi la consumi tutta. Ok, non avevo capito funzionasse così, e allora niente. Cioè, o casto tutto quello che ho e poi faccio un movimento da fulmine, ma no. È molto bello, però. Vi do un minuto per pensare a cosa fare e poi passo agli altri. Arrovellando e poi dice non credo riusciremo mai ad arrivare prima di loro. Quanto sono lontani? La fine della coda vi sta passando a fianco adesso, però sono diverse legioni, saranno un centinaio di uomini. La testa della coda è abbastanza lontana, la testa della fila. Ok, quanti paesani abitanti ci sono vicini? Che interessante, abbastanza. Cioè siete all'uscita della città, quindi in realtà non c'è tantissima gente, la gente si accumula nelle piazze. Però la gente non è curiosa che ci siano così tante mobilitazioni di impero? Non sembra. A Esboson la gente non gliene frega un cazzo. Okay, sono abituato. Perché mi può castare Terrify e fare un po' di casino. Con i romanzi è un po' rischioso. Nei romanzi poi come ti trascino via, cadi come un pero, lo fallisci il save di dei romanzi. Aspetta che lo falliscano gli altri. Poi ci ragioni su come svegliarlo. Sì. Esatto, perché se no posso castare Terrify e allo stesso tempo che cazzo ne so, un... Ma che vado rispetto a lanciare fulmine a cazzo di cane? Cioè... Esatto. Io? Ma cazzo, tu ne dai fulmine nel cielo, porca troia. Cioè, visto di fatto. No. Il pro. Il cielo, nel cielo, magari è. Riesci a fare delle forme con questo fulmine? No, mi avvisi per quale cielo. Oh, chiaramente. Sei un incapace. Ok. Ascolta, tesoro, non mi piace il tono con cui che stai utilizzando con me. Non... Cioè, pensi veramente che fare un fulmine fermerà questi qua? Tra l'altro il fulmine parte da te. Appunto, quindi... Ok, scusatevi. Anche dico... E... Ci sono oggetti vicino a me? Cosa stai cercando? Sei un po' più specifica. Rocce grandi, casse, qualcosa. Allora, ci sono dei muretti, che non credo sia quello che stai cercando, anche decorativi, e poi ci sono delle case. Sulle case non c'è molto di interessante, assi di legno o cose del genere. Ok. Miff ti prende Adone, ok, e ti fa, ok, io posso castare qualcosa per distrarli, ma il rischio è alto. Cosa facciamo se tutto va male? Facciamo così, provo a mandare il coniglio e speriamo si fermino prima per strada. Ok, va bene. E Adone a questo punto scrive velocemente un messaggio scritto Legioni in arrivo, scappa, nascondetevi. Lo dà in bocca al coniglio e manda il coniglio. Ho una domanda, Pjanic. Quanto si può far notare il coniglio? Tanto, cioè, puoi farlo muovere in modo erratico. Ok, no, però se voglio... No, il contrario, voglio che non si faccia vedere. Ah, ok, gli faccio fare un test di nascondersi. Perché credo che cercherà di andare... Tirare non in mezzo alla legione, ma magari in maniera un po' parallela. Comunque vuole andare il più velocemente possibile in giro. Ok. Faccio rollare... Cioè... Casti il coniglio, spendi il mana. Sì, casto il coniglio. Fatemi un po' a togliere il vostro mana, perché avete sprecato un sacco di mana. A parte che non l'abbiamo ritirato dopo il riposo. Perché? Abbiamo fatto un riposo. È un giorno nuovo oggi. Abbiamo settato tutto al massimo. No? No. Come te dici? No. Io ho ancora 18-7, infatti. Ok. No, ovviamente non... no, perché io c'ho massimo 41, ma tu hai 45. Sì, sì. Infatti, quindi mi metto di vita 37? Avevo ancora la fatica del giorno prima, infatti. Ok, sì, okay. Sì, possiamo fare... cioè, avete riposato perfettamente, quindi posso darvi il massimo. Faccio il massimo di roll nel mana? Sì, sì, sì. Oddio, no, mi sa che il mana non dipende da quello. Cioè, il mana devi rollarlo comunque. Ok, quindi allora sono... sto cercando di capire. Sì, quello è proprio random. Devi tirare 3 di 4. Ok. Quindi 7 più 8 fa 15. Lo cambi tu, lo cambio io? Cambia tu, lo fai tu. Ok. Cioè, almeno... praticamente dovete togliervi un overpower Nibble. Spell che ha usato, palla di fuoco, eccetera, lieto, il coniglio... Sì, io passo da... io l'ho già segnato, avevo messo uno di fatica in realtà. Passo da due fatica a uno, quindi, perché ne avevo una di ieri che ho recuperato e una l'ho usata adesso. Correggimi se sbaglio. Sì. Ok. Tutto giusto. E... no, hai usato Fireball per liberarti dalle catene. Fireball costa 3. Ah, sì, è vero. E mi ho segnato in realtà... Sì, io quanto mana ho massimo? Perché c'ho 0? Perché continui a modificare la formula. Sembra plausibile. Ma era... ma io quando devo modificare modifico il mana attuale. Sì, il mana max per qualche motivo c'hai 0, non c'è la formula. Quindi a un certo punto... ma poco mai. Vabbè. Non so. E tu di mana hai 3 di mana massimo. Okay. E il coniglio costa 2, quindi hai 1. E hai usato qualcos'altro? No, no, non solo quello. Allora sì, hai... vai, ci siamo. Cosa stiamo facendo? Cioè, dovevi rollare per il coniglio? Sì, per nasconderti. Vai. Sì. Aspetta. Certo, non mi muovo. Posso usare l'hack counter? Non credo funzioni così, King. No. Tanto per cominciare non lo puoi fare dopo aver rollato. In secondo luogo fa una cosa completamente diversa da quella che credi che faccia. Hai ragione, sì, no, hai ragione. Posso usare rewind? Puoi usare rewind, conta che sono le 9 di mattina e ne hai 2 al giorno. Sì. Va bene. Eccellente. Vabbè, that's what I get for trying to help my friends, I guess. Già. Il coniglio, nel tentativo di muoversi silenziosamente, spaventa un uccellino in un cespuglio o qualcosa del genere, e almeno uno dei soldati, che è un po' teso, cioè sono tutti molto tesi, crea delle lame e gliele lancia contro, facendolo scoppiare. Madonna. È partita. Tu ne può chiedere i danni. Adone che vede la scena un po' da lontano, perlomeno percepisce che il famiglia è sparito, si gira verso me e dice: se vuoi li rollo, però se rimane vivo è peggio. No, lasciamo. È tipo le morti al rallentatore quando stai mirando un drago e colpisci un cervo dietro su Skyrim. Si dice: non ci ho provato. Dai, se la caveranno. Facciamo presto. Spoiler, they will not. Tipo, poi Nif, vedi che si incammina già, poi si gira verso di te e fa: dovrebbe arrivare Promethea, giusto? Ma dove si mette le mani in faccia? Non lo so. Suo bambino potrebbe essere in pericolo. Tipo, Mifo che fa: ok, so piano, andiamo a cambiarci. No. Okay. andiamo. Mi stai tipo fa mezzo jogging, no, verso Volcan. Comunque non serve che fingiamo sempre di essere una coppia, lo sai? Sì, no, lascia stare il mio tubo. Mi dispiace, non volevo... Non ci sono allusioni di nessun tipo. Lascia stare, tranquillo. No. Abbiamo finito il nostro tentativo. Benissimo. Dall'altro lato... Casa. Il mio trittico preferito sta continuando il gioco di prima. E dal lato da cui vi aspettavate che arrivasse qualcuno, non arriva nessuno. Il sole viene eclissato dalla creatura a sud e siete voi tre lì in piedi. E all'orizzonte scorgete delle persone, numerose persone che arrivano verso di voi. Oh oh, dice Cici. Sono l'impero? Quanti sono? Sembra tutto l'esercito. Tutto l'esercito mi sembra un po' tanto. Che facciamo? Abbiamo coperto l'automa. Siamo subiti sopra, tipo l'automa. Sì. Vabbè, lo lasciamo qua. E chi si è visto, si è visto. Mi sembra un'ottima idea. Ok. Manca a me un'ottima idea. Nei boschi? Dritti per i boschi. Dritti per i boschi. Ok, vi allontanate dall'area e vi nascondete fra la boscaglia. Da qui Cici, quantomeno, voi ditemi se volete seguire la sua idea, cerca un punto dal quale riesce a nascondersi sopra un albero e controllare cosa sta succedendo. Sì, l'aiuto a salire in caso. Grazie. Cici è inorridita dal vedere il gruppo di persone, i soldati, che formano un cerchio intorno al cadavere di metallo che avete abbandonato lì. E sono notevolmente distratti da questa cosa. Abbiamo osservato a sufficienza, possiamo... alle vostre spalle. Insieme a voi che osservate. Pietra. che ha la vostra stessa attività, nel senso, è lì che guarda. Il guardone, il voyeur della... C'è una capra nera. Ok. Quando scendete dall'albero vi accorgete che c'è questo caprone nero. Ci ha visto? Vi sta fissando. Cioè stava guardando cosa stavate guardando e poi quando avete smesso e siete scesi vi sta fissando. È una capra, cioè è un caprone, ma... Sì, sì, sì. Quindi vi guarda così. Io uso Wild Lover per parlargli, per sussurrare, dico... Shh. Qua ci abita la mia famiglia. Non abbiamo intenzione di fare del male a nessuno. Appena quelli lì se ne vanno via, ce ne andremo via anche noi. Bene, andate via subito. Facciamo una cosa. Riesce a fare rumore non troppo distante da qui, in modo da attirare la loro attenzione, così che noi riusciamo ad andarcene. Riesco ad attirare la loro attenzione. Non ma qui, non spero. A fare rumore. Ok. Mi promettete che non farete del male alla mia famiglia? Assolutamente. Non è il nostro intento fare del male a nessuno. Vogliamo soltanto tornare in città. Voi intanto sentite... Infatti sì, io tipo... E beh, che dice lì? Farà una distrazione per noi. Dobbiamo approfittare. Appena distrarrà i soldati, corriamo verso la città. Non è così normale per una capra, però. Lei non vuole che facciamo del male alla sua famiglia che si trova qui. No, sono lui. D'accordo con questo. Le capre dalle mie parti non fanno questo. They don't. Non è importante al momento, l'importante è che torniamo sani e salvi al Desbos. Ok. E vabbè. Guardo la capa e dico: affare fatto allora. Meh. Inizia ad andarsene a fare clop clop clop. Poi vedi che si alza sulle gambe inferiori e voi sentite un meh, mentre Nibel sente chiaramente un grande temo, Fab, dammi la forza. Lo sapevo! Oh mio Dio! E crea un incendio che si propaga in direzione opposta a quella in cui state andando. Ok. Come Nibel fa faccia Moai e dice andiamo. Ma di sicuro è una distrazione. Grande tempo. Non è quello a cui stavo pensando, ma non sapevo che le capre sapessero fare questo. Abbiamo capito che le capre in quest'isola sono tutte fan di Temofab. Neanche uno è diverso. Se avessi una moneta, per ogni volta che ho visto una capra che dava fuoco qualcosa, avevi 3 monete, il che è troppo per i miei gusti. Che bei tempi. Dicevo, la boscaglia di questa zona sta allegramente andando a fuoco. I soldati che erano già colpiti dall'oggetto fuori posto sono ulteriormente confusi dall'incendio che si sta propagando a sud dell'isola. E quindi una parte di loro si separa per andare a contenere l'incendio. Voi riuscite ad aggirare tutta questa cosa qua e dopo qualche minuto di camminata fuori dai percorsi normali, quindi tra i campi eccetera, riuscite ad arrivare in città. Ma ci arriviamo tra un attimo, perché prima ci sono Adone e Mif. Saremo arrivati in locanda. Sì, cosa volete fare in locanda? Mif si cambia i vestiti, cioè si dà un attimo una pulita, se ci sono tipo i cosi che si chiamano. Sono sporchi di sangue. Appunto, cioè cerca di darci un attimo una pulita. C'è l'apparecchiatura che pulisce i vestiti. È compresa nei servizi della locanda? Sì, dai, sono una ricetta. No, no, Mif stava pulendo i vestiti, nel senso che lo fa con la caricatura. Esatto. E lo fa a posto, lei si sistema in sua base, c'è cioè un coso d'acqua, si dà un attimo una lavata e fa bene, si riveste un attimo, posto, possiamo andare, andiamo alla Corona Nera? Dammi un secondo che devo controllare un attimo una cosa. È Adone che parla o sei tu? Sì, sono io perché... Capito, niente, è il messaggio che mi avevi mandato l'altro giorno. Okay, sì. Va bene. Vuoi che andiamo alla Corona Nera a sentire se Promezza è arrivata? Dice che l'esercito sicuramente li beccherà quegli altri, cioè già che ci siamo. Non si sente un cazzo, Fra. Pronto? Vai. Vabbè, dicevo appunto, andiamo lì alla Corona Nera e poi raggiungeremo gli altri. Ok. Andiamo alla Corona Nera. Perfetto. Qua ci sono, ovviamente cronologicamente succede prima che è arrivata la Corona Nera. È arrivata la Casa Nera, con la che ovviamente è un antiquariato. E c'è la signora che ha già aperto, insomma, sta già preparandosi per lavorare. Non ci sono clienti, stranamente. Mith fa tipo bussa sullo stipite della porta. Ehi. Ah, buongiorno. Per caso è arrivato qualcuno? Non lo so, non credo. Non hai ricevuto notizie? Nessuna lettera? Nessuna lettera, ho detto di andare fuori città, poco fuori dalla città, come mi avevate detto alle persone interessate. Non so se qualcuno era effettivamente interessato. Probabilmente no, non c'è stato nessuno per il momento, per questo siamo passati di qua a sentire. Avete dato anche troppo poco preavviso. In genere gli acquirenti devono organizzare i viaggi per fare queste cose. Giusto. Bene, ok. Allora, quindi non è arrivato nessuno? No. Nessuna promessa di cui ci dobbiamo preoccupare. Deduco che non avete venduto la vostra cosa? No. E l'impero ci sta andando proprio dritto in bocca, quindi non è neanche detto andrà a buon fine. Peccato. Sì, era un corpo fortuna... messo veramente bene. Avrete più fortuna la prossima volta, ne sono certa. Grazie. Serve qualcosa? Volete una pergamena? No. Perfetto. No. A posto. Andiamo al porto. Tipo... porta quando uscite. Mi chiude la porta, si gira verso Don e fa. Andiamo al porto. Per? Vedere se c'è Promethea. C'è un'intera legione. Cos'è che possiamo fare noi per salvare quei tre sfigati, ok? Cioè, generalmente... tipo, mi fa. Io non posso fare nulla contro tutta quella gente. Quella donna, probabilmente sì. Possiamo pregare e sperare. Quale ovviamente... di imprigionato hai intenzione di pregare? Perché io di certo non venero te. Era una soluzione così facile. No. Andiamo tipo, mi fa proprio... No. E si gira verso il porto. Insomma, Adone va con lei dietro. Figo. Cambio di scena. Siete arrivati in città, tra vie traverse, quindi arrivate non all'entrata principale della città, ma in una delle viuzze. E dopo qualche minuto, se non avete intenzione di fare altro, arrivate alla locanda. Sì. Perfetto. Come era prevedibile, i cavalli sono tutti e quattro lì. Quindi sembrerebbe che gli altri non sono ripartiti. Speriamo non li abbiano catturati quelli dell'impero. Se l'hanno fatto, mi sa che è finita per loro. E aspettiamo un po', torneranno indietro. Vogliamo aspettarli qua? Beh, cavalli sono qua. Sia un buon momento per andare in giro per il paese. Però se tutto l'esercito era dall'altro lato, significa che qua non c'è rimasto nessuno. Vado dentro il locale e dico al barista o chiunque ci sia, i nostri compagni sono passati di qua per caso? C'è la locandiera che dice, ah sì, la ragazza scura è venuta a lavarsi i vestiti e poi sono riusciti. Quanto tempo fa si ricorda? Pochi minuti fa. Ok, la ringrazio allora. E ritorno da Lietrico. Sono passati qua pochi minuti fa. Non credo che siano stati intercettati. Ok. Meglio. Sa dove, in che direzione se ne sono andati la locandiera? Non l'hanno detto. No, non lo so. Ok. Vogliamo provare a tornare alla Corona Nera, alla messaggera? Ci possiamo provare. Mi sembrano quelle situazioni di Scooby-Doo dove il mostro passa da una porta all'altra, passa dall'altra porta e andare. Bellissimo. Sì. Cici, vuoi rimanere qua alla locanda? Non dovremmo metterci troppo. Sì, mi sembra più sicuro per me. Vado al bancone e lascia una moneta alla signora per il disturbo / per prenotare per un'altra giornata la stanza. Okay. No, non so niente, andiamo alla Corona Nera un attimo e vediamo se troviamo gli altri ed eventualmente li informiamo del fatto che ci hanno fottuto uno degli oggetti che avevo messo in vendita. Perfetto, per vostra fortuna la strada che dalla Corona, cioè dalla Casa Nera, va al porto incrocia la strada che l'hotel, l'albergo che avevate trovato incrocia la Corona Nera, perché l'albergo, come vi ricordavate, è nel porto. Sì, sì. E quindi vi incrociate a metà, in mezzo alla strada, e non ci sono più i soldati dell'impero, avete incrociato dei soldati del regno, che sono la forza di polizia locale, però cioè, non vi stanno attivamente cercando, quindi ci sono tipo cioè, un caramba. Ok, e niente, siete solo voi quattro, non c'è Cici, non c'è il cadavere di metallo. E vabbè, aggiorno gli altri sul... Aggiornali. Sì, siamo stati abbastanza fortunati. Ci ha salvato una capra che ha fatto scaturire un incendio. Ha pregato qualcosa e ha lanciato un incantesimo, non so bene. Temofab? Sì, ho detto Temofab. Era una capra nera. Questo non lo sapevo io. Certo. Non parlo con le capre. Da quello che ho notato è un brand di Temofab. Sono felice che siate vivi. Ho provato a comunicarvelo con un coniglio, ma è stato prontamente ucciso da quelli dell'impero. Vabbè, meno male che sono Zegetta. Beh dai, perché l'idea era di andare da tua madre e sperare che sia arrivata tipo poco tempo fa, cercare di cercarla e mandarla contro l'impero perché tu eri in pericolo. Ma non bisogna fare più questa cosa, quindi siamo un po'. Sì, nessuno immagino è venuto a comprare, vero? No, anzi, abbiamo perso l'automa. Sì, e l'abbiamo dovuto lasciare lì causa. È stato circondato da, dai soldati dell'impero, quindi potrebbero mettere la zona in come si dice? Scusatemi, cosa ne è stato del corpo? L'abbiamo buttato in 10 cespugli nascosto, distante dall'entrata. Non benissimo, società. Cioè, come si poteva fare per il momento, quindi... Ok. Dobbiamo solo sperare che non si mettano a investigare più lontano dell'entrata della città, però... E invece, secondo me lo faranno, ma non sarà un problema nostro, immagino. Se la città va in quarantena, credo che sarà difficile uscire da qua, quindi... Sì. È molto probabile che è quello che faranno. E ti credi che è il momento di cercare la nostra bellissima mana unit? Doveva essere il corpo la nostra mana unit? Sì, io direi che a questo punto... ci aveva raccontato tutto della... Quanto avrà rubato. Ok. E direi Adelfo che dovrebbe aver rubato 8 mana unit, se non ricordo male. Dovrebbe averle ancora con lui. Ci ripeto, mana unit troppo. È un qualcosa che è successo qualche anno fa, quindi non è detto che le abbia ancora, però è l'unica pista che abbiamo. E tira fuori la mappa, no? Magari se c'è una cassa dove si possono un attimo. Sì. Ma resort fa. Dov'è che ti ha detto che è questo santuario? Perché dalla mappa chiaramente c'è qualcosa sulla montagna, ma non so se tipo sia un santuario. Le due opzioni sono il monastero che si trova in cima alla montagna o il culto gnidario. Mi ha detto un nome che era Aixos, se non ricordo male. Ok. Cos'era Aixos? Era la cima della montagna o era il... Ah, Aixos credo fosse il nome del tizio, del mercante. Sì. Ah, il del mercante. Il rigattiere, sì. Sì, perché avevo fatto scritto gli appunti velocemente, ma ho scritto solo Aixos senza scrivere così. Com'è che possiamo... C'è un sentiero che porta a... al tempio, oppure dobbiamo farcela in qualche modo? Perché magari possiamo costeggiare il fiume, metti che magari c'è un sentiero lì, o possiamo chiedere a qualcuno. Non so come funziona la strada, quindi dovremmo chiedere ai locali. Possiamo chiedere alla locandiera, volendo. Magari sì. Lo so. Dalla mappa sembra che il fiume arrivi direttamente alla sorgente della montagna, quindi esatto. L'opzione più normale e sicura sarebbe seguire il corso del fiume. Sì, anche secondo me, per questo l'ho detto. E proviamo a chiedere. I cavalli non sappiamo se i cavalli possono attraversare la montagna, perché altrimenti ci toccherà arrivare fino a lì con i cavalli, salire, anzi lasciare i cavalli qua direttamente ad una delle strutture della famiglia di Nadreos e andare a piedi sulla montagna. Sì. Beh, se ci incamminiamo subito, metti che 9 orette, forse, ce la facciamo. È ancora presto, se partiamo subito dovremmo poter arrivare ai piedi della montagna e riposarci. La mappa è 1-1, vero? Sì, ogni quadretto è 1 chilometro. E dovrebbe essere tarata decentemente. Quanto... Domanda, quanto dislivello è della montagna? Ogni in realtà fino alla base della montagna sono 7 km, quindi in realtà non è neanche tanto. Sì. Se caso, scusate, sono 2 ore tipo. Sì, ci sono 5 km di camminata. Sì, quindi... sì, sì, sì. Ogni cambio colore sono 250 metri di dislivello. Ok. Ah, quindi in realtà... Altina. È una collina. È una collina, esatto, cioè non è molto. Poi 250 così o così, cioè perché cambia ovviamente. Poi 500, poi 750, poi 1000. La cima è meno di 1250. Ok, il santuario che ipotizziamo sia quello perché si vede dalla metri. Mappa. 500, allora si fa in una giornata, minchia, fantastico. Se andiamo a passo veloce probabilmente riusciamo ad arrivare al santuario quando fa buio. Sì, sì, sì. Allora Miff chiude e va verso la locanda. Ok. Ah, andate tutti alla locanda? Sì, sì, sì, sì, stiamo insieme, non c'ha senso. Dividiamoci. Dividiamoci. È seduta in un tavolo e sta bevendo qualcosa. E vi fa un cenno quando vi vede tutti riuniti. Qual è il vostro grande piano? Andiamo a per il pitto. Queste due cose gli arrivano insieme. Non è pizzo se non l'ha guadagnato. Giustizia! Legalmente, esatto, no. Tu che hai lavorato con l'impero, qual è la prassi nel caso venga trovato un automa? Si mette in sicurezza l'area, poi dipende da tanti fattori. Gli automi di per sé non dovrebbero essere infetti. Tuttavia, se si trova un automa che è stato distrutto, vuol dire che qualcuno l'ha attaccato e quindi potrebbe essere infetto a sua volta. In genere si tratta di identificare tutti gli individui e poi mettere in sicurezza l'area. L'automa era perfettamente integro, quindi... Sì, per l'hanno cui morto. Sarà molto sarà. Strano per loro. Però pensi che possano mettere comunque la città in, o perlomeno i quartieri vicino all'uscita in quarantena? Potrebbero farlo non per motivi seri, ma per cercare di capire chi è stato a portare qua l'automa. Ok, allora abbiamo poco tempo. Cosa vuoi fare tu? Ci segui oppure... Se resto qua, nel migliore dei casi mi daranno la legge marziale, quindi sì, mi unisco a voi. C'è una chiesa qui vicino? Vuoi usare uno di quegli apparecchi che ti cambiano il sesso e l'aspetto? Saprebbero riconoscermi lo stesso. Quindi stai dicendo che abbiamo cambiato genere, Peppi? Come? Stai dicendo che abbiamo cambiato genere per niente. Avete cambiato genere? Sì, in realtà Lito è una donna. Non lo sapevo. Ah. Do tipo uno scappellotto a Mith. Che ricacchia. Ma non lo vedi, dai, come si pone, dai. Penso che sia evidente, insomma. Sì, uno scappellotto, tipo più forte del precedente. Mith questa volta si china. Qualcuno. Agile come una faina. Esatto. Libel, tiro lo scappellotto a Lieto, basta adesso. È una mazzuola però, capito? Adore tiro una schicchera a Cici, così, per... No, non lo fa, Adore. Ma no, la domanda è, Nibel c'è ancora Overpower attivo? No, basta tre ore. No. Minchia, fai la fine di Baldur quando Kratos gli ha dato il pugno, cioè, fai più ridiri. Capriola sul terreno. Per quello che mi chiedevo, sì. Questa è stata una bella scena. Volevate parlare con la locandiera, mi pare, prima che vi interrompessi. Sì, infatti, va molto biliardica la locandiera. Fa, Alve, avremo bisogno di un'informazione se è disponibile. Se posso aiutare. Mif apre la mappa e fa, indica il posto dove devono andare. Sai per caso strade, sentieri che ci possono portare su in una maniera abbastanza semplice? La e signora... se i cavalli li possono fare? Se la ride e dice, si vede che non siete di qua. Già. Mif tipo che si indica alla faccia, come per dire. Il tempio è una mezza leggenda. C'è mai a stato noi nessuno. Piacciono le leggende. E come mai non c'è stato nessuno? Appunto, è una leggenda. Ho sentito dire che se provi ad arrivare al tempio a piedi, qualche forma di magia o qualche bestia illusoria ti riporta indietro. Così non mi sta però convincendo a non andare, anzi. Non sto cercando di non farti andare, ti sto dicendo quello che sanno tutti da queste parti. E sapete se c'è un sentiero? No, non c'è, non c'è un sentiero. Ok. Vedete come vengono tracciate le mappe? No. Le mappe vengono tracciate da un incantatore che lancia una magia di visione in a una distanza fissa, un numero di volte sufficiente da creare la mappa. Per cui questa mappa è stata fatta da un incantatore, non sapendo effettivamente la geografia del territorio. Cosa sia quel quadrato lì in cima non lo sa nessuno. Però andando in quella direzione, cioè, quelli che ci vanno cosa, non vedono niente? Non ho idea, con la magia si può appunto avere una... immagine di questo tipo, ma andandoci a piedi, per quanto ne so, tutti si perdono. Ok, grazie. Andremo a scoprirlo. Tanto poi dovremo attraversare la montagna e andare dall'altra parte, quindi. Grazie mille dei vostri servizi. Se va male ci rivedrà, se no mi auguro una buona giornata. A voi. Arrivederci. E faccio attenzione all'impero. Potrebbero chiudere tutto tra non molto. Tanto non me ne posso andare. E usciamo fuori, suppongo. Perfetto. Vale, beh, ritorno dietro e dico, pensa che possiamo raggiungere quei cavalli oppure è meglio se li lasciamo qui? La montagna si fa molto ripida nella parte più interna, quindi potreste arrivare circa alla base del fiume. Oltre no. Però probabilmente sarebbe meglio lasciarli ad uno dei sussidiari di Nadreus. Ti posso pensare sta io. Dove si trova? Può farlo lei? Ok. Sì, sì, sì. Allora vi faccio vedere, ci aveva dato un documento mi sembra per... Le devo lasciare qualcosa oppure posso fare una lettera con scritto Nadreus, grazie dei cavalli? Ah sì, se ci vuoi lasciare una lettera gliela faccio arrivare, sì. Però in genere basta che... lasci i documenti e se ne occupa uno dei loro funzionari. Sì, lascio i documenti, prendo un foglietto, scrivo Nadreus, grazie per i cavalli, ci rivedremo, Nibel. Perfetto. E lascio il biglietto. Vi salutate e siete fuori dalla locanda. Se vi ricordate, la locanda è nel quartiere portuale. Quartiere portuale è costruito con una grande piazza nella quale ci sono tutti i negozi, tutte le cose che avete visto, e dopo il porto effettivo. E vi colpisce, perché per quanto ne sapevate era abbastanza fermo il traffico, che si è appena attraccata una nave di medie dimensioni, quindi non un galeone ma una nave di medie dimensioni, battente bandiera di Apeira. Cioè, bandiera di Apeira, non di Achaies, non di Scirocco, eccetera. Bandiera di Apeira. C'è qualcuno di Apeira che ha interessi qua? Non saprei. Chi è? Niente, non conosco nessuno di Apeira. No. No. Tua madre è di Apeira? Non penso. No, però. Siamo di Scirocco noi. A meno che non fosse ad Apeira, per qualche motivo. Non sei un cazzo, bro, quindi... Non sono un cazzo di niente, esatto, quindi è tipo... È strano che una nave sia arrivata qui da Apeira dopo qualche giorno che siamo arrivati noi. Vuol dire che sono partiti subito dopo di noi. Seguiti. Adone, puoi andare in avanscoperta con uno dei tuoi conigli per vedere chi è? Se volete sì. Ci fermiamo se vuoi, Scusate, se volete andare avanti voi potete pure farlo. Io mi sa che devo un attimo staccare, non sto tanto bene. Ok. Ok, va bene, fra. In caso se vuoi venire ci sentiamo più tardi. Sì, sì. No, ci sentiamo sempre più tardi. Ciao. Ciao. Ciao. Ditemi voi cosa volete fare, cioè... Vogliamo provare a fare questa cosa o la facciamo senza Adone, nel senso che andiamo direttamente a vedere al porto oppure facciamo... Io posso provare ad andare furtivamente per vedere se... Alla fine non devo avvicinarmi troppo al porto. Voglio giusto vedere dalla nave se c'è qualcuno che... qualche faccia conosciuta che possiamo... Guarda. Tipo... Vabbè, se mai facciamo sta scena e poi... Esatto, sì, esatto. Ci fermiamo. Miff tipo che ha un attimino un momento di... E se fosse una parte dell'impero? Nel senso, quando... Vedete Miff, no? Che si fa sempre più piccola. Quando... Oh no, speriamo non sia quella cosa lì. Quando abbiamo sconfitto Diru, voi dopo ve ne siete andati, è venuta una Magister... E un altro tizio. Sì, è quello che sospetto anch'io. Che siano le truppe dell'impero. Io poi... li riesco a riconoscere se sono tra loro. Vuoi andare tu, quindi? Puntarti... Da sola? Ti ricordi l'aspetto? Sì. Vado io. No, io Sara non mi ricordo. Non mi ricordo la maschera di qualcosa. Mi ricordo il Aveva la maschera nera, era una magister con la maschera nera. Ma era da volpe? No, da gufo, che cazzo era? Quello non mi ricordo. Infatti. L'ho visto anch'io in realtà, l'ho visto anche Nibel. Quella che è addormentato, dici? Quella che ho addormentato, esatto. Okay, sì, quella sì. Che insieme a Maria. Era un gufo. Era un gufo, ok. Beh, possiamo... Se è lei, sappiamo che ci stanno dando la caccia attivamente. Esatto, e se si vede quell'altro signore... Quindi non sarebbe meglio se ci leviamo dal cazzo e andiamo a cercare il... tempio che non c'è, anziché andare verso quelli che ci cercano. Oh, al massimo li addormento una seconda volta, cioè. Potrebbero servirci i cavalli, però io gli ho dato i documenti per fare il ritiro, quindi se rimanete qui, parlate con la locandiera, eventualmente tenete pronti i cavalli per potercene andare. Ok. E poi troveremo un modo per farli ritornare o per lasciarli da qualche parte, però ci servono per andare via il più velocemente possibile. E noi allora andiamo a prendere i cavalli. Esatto. Ok. Quindi solo Nibel va a fare questa cosa. Noi sì. Teniamo d'occhio il molo, I guess. Cioè, descrivimi il molo com'è, cioè nel senso... Non so, tipo, i moli sono tipo in discesa, quindi non lo so, c'è tipo la scalinata dove posso vedere dove ci sono le abitazioni, tipo stare lì e vedere da lontano la... Siete la nave. Siete sulla la foce di un fiume, quindi in realtà è tutto abbastanza piatto, non è in discesa, è tutto sullo stesso livello. Parte questo, il molo è subito dopo la piazza, quindi in realtà hai dei distrattori col fatto che la piazza è piena di persone... ci sono i banchetti, ci sono tanti luoghi in cui nascondersi e ci sono tanti vicoli perché comunque sei vicino alle parti abitate. A parte questo non c'è niente di particolarmente interessante, cioè è tutto lì. I moli in sé sono suddivisi in, come si chiamano, in aree, chiamiamole genericamente, con delle banchine di legno più lunghe per le navi tipo che fanno grandi viaggi, molto grandi, eccetera, e molto corte per quelle invece tipo dei pescatori. Questa nave di medie dimensioni svetta un po' sui pescherecci e sulle altre navi piccole, e quindi si vede si vede da dietro, cioè da un po' più lontano. E inoltre ha in cima questa bandiera di Apeira, che è diversa da tutte le altre. Ok, riesco a vedere qualcuno scendere dalla nave? Vedi che c'è del traffico e che tra un attimo scenderanno. Okay. Mi metto dietro, non lo so, ci sono degli edifici dietro una viuzza lì, senza farmi vedere troppo. Oltre ai marinai, che hanno tutti un vestito particolare da marinaio, quindi bianco, semi-militare, ci sono quattro persone vestite in modo diverso. Quattro persone delle quali qualcuno dà nell'occhio. La prima di queste persone è una ragazza dai... da primo secondo. Li voglio dire in ordine perché probabilmente non sono in quest'ordine. Allora, una ragazza dai capelli biondi è la prima che scende, sui 25 anni, 24-25 anni, dalla pelle abbronzata sul 1,70 m. Indossa la divisa dell'Accademia di Apeira, quindi ti è anche abbastanza familiare la divisa, con tanto di spilla della Zenith Auster. Il secondo a scendere è un ragazzo con gli stessi vestiti scuri e i capelli neri, alto circa quasi 1,80 m, 1,78 m, una cosa del genere. Fuma e ha con sé una lancia che non si preoccupa di nascondere. La terza persona a scendere è una donna anziana dai capelli bianchi. Indossa un abito molto elegante, anche questo firmato dalla Zenith Auster e con tanto di spilla sopra, e ha dei lunghi guanti che le coprono completamente le braccia, impedendo di vedere cosa abbia sotto. Il suo sguardo sterile e freddo contrasta tantissimo con l'ultimo dei quattro, che non c'entra niente con gli altri. E dei quattro non colpisce... l'avevo scritta meglio, scusate. Dei quattro non colpisce tanto la donna dei capelli bianchi quanto uno dei ragazzi. È vestito in modo assurdo. Sembra uno sciamano di qualche popolazione berber, con vestiti estremamente succinti che lasciano quasi tutto il corpo scoperto, rivelando un fisico scolpito, abbronzato e perfetto, che nessuno avrebbe immaginato su quel ragazzo. Un gilet di pelle rossa aperto, foderato di pelliccia, un gonnellino del medesimo materiale con la stessa fodera, polsini e cavigliere analoghe, nient'altro, tutto questo. Scalzo, quindi, con il petto scoperto. I suoi capelli sono rossi e gialli come fossero fiamme e sono molto lunghi. I suoi occhi sono coperti da una fascia, anch'essa di pelle rossiccia, e che gli copre completamente la vista, ma nonostante questo sembra riuscire a camminare naturalmente. Non ha niente con sé, nessuna borsa, nessun bagaglio, eccetto che un tomo rosso stretto nella mano sinistra. Questo è tutto quello che vedi. Appena li vedo, faccio dietro fronte e torno indietro dagli altri. Perfetto. I due studenti li riconosco, sono Deimos e Yaragambirasio, come era l'altro? Marika e Deimos, sono indubitabilmente loro due. Sì. Okay. Torno dagli altri, mi vedete fare a passo molto veloce, ritorno da voi, dobbiamo andare. Ma ci hai visto? Se tu dovessi pensare ad una persona che non vorresti che fosse qui, che arriva da Peira e che ha particolarmente potere, secondo te chi potrebbe essere? Via Peira? Vix si gira verso dietro e fa: cos'è che hai detto? Maria? La mucca lo sa. No, Maria non è di Peira, Maria è morta. Però veniva da Peira. Veniva da Peira. E cioè, era... vabbè, noi non lo, noi non lo sappiamo in realtà che... Cioè, noi sappiamo che è morta, ma sappiamo anche che si possono riportare in vita le persone che... Avete preso i cavalli? Sì, hanno preparato tutto. Ok, posso... Andiamocene. E chi è arrivato? Non hai detto Steven! Ok, non essere come mio padre! La mucca lo seguì. Ok, sì, noi ce ne andiamo. La Mucros era stata presidentessa delle centrali anche lei prima di... È l'attuale. Era l'altra, ok. Ed è anche la direttrice, sì, la presidente della Dreithauser, come sì. Ricordavo. Quella a cui hai strappato davanti agli occhi il contratto, insomma, te la ricordi, sì, sì, dai? Sì, no, me la ricordo. Perfetto, ottima persona a cui strappare. Stavo solo cercando di ricordarmi le cariche. Cioè, oltre ad avermi visto di recente, mi conosce anche, quindi è meglio che ce ne andiamo. Perché tutte le genti più importanti di questo mondo si stanno radunando tutti qui a... Dietro si gira. È un'ottima ricordo. Sì, andiamo. Siamo andati. Andiamo i cavalli, andiamo.